questo lunedì 30 gennaio. Uno sguardo intanto ai titoli, Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì si dedica e dedica diverse pagine proprio al tema semplificazione approvate venerdì dal Consiglio dei Ministri. Deregulation, tutte le novità, questo è il titolo di apertura. Mentre vediamo gli altri quotidiani, per il Corriere della Sera, così i locali evadono il fisco, il titolo su quello che è successo a Milano, nuovo blitz, anche se questo termine è stato contestato dai commercianti della finanza. Anche per il Messaggero, fisco, negozi nel mirino, questo è il titolo. Per Repubblica, nuovi assunti senza articolo 18, ecco il piano sul welfare. La Stampa, arriva il jolly europeo, 8 miliardi all'Italia, questo è il titolo. Mentre per Il Giornale ci si dedica sulla morte di Oscar Luigi Scalfaro. Scalfaro santo, noi non ci stiamo. Questo è il titolo del Giornale, che riecheggia il più celebre Io non ci sto, proprio dell'ex Presidente della Repubblica. Per l'Unità, l'uomo della Costituzione, c'è la foto di Oscar Luigi Scalfaro in prima pagina. E per Il Secolo XIX, addio a Scalfaro, l'anti-Berlusconi, così è il titolo di apertura del Secolo. Intanto da cosa voglio partire? Ma sì, dai, giusto per rendere un po' l'aria frizzante, è lunedì, qualche notizia dal mondo della casta, no? Sapete, in modo da tenerci subito caldi. Oh, è una settimana importante perché Fini e Schifani, Presidente di Camera e Senato, tra oggi e domani dovranno annunciare dei tagli. L'Unità ironizza un po', parla di taglietti più che altro. Arrivano i tagli, 1.800 euro in meno nella busta paga, eh? Così titola l'Unità, pagina 18 e 19. Due pagine, prevista per oggi alla Camera, domani al Senato la presentazione del documento conclusivo sui tagli alle buste paga dei parlamentari. Si interverrà su cosa? Sui viaggi, sugli altri benefit, speriamo anche sulla normalizzazione dei contratti di lavoro per i collaboratori parlamentari, no? I portaborse, che ora hanno, alcuni sono costretti a lavorare in nero, molti hanno il contratto da colf. Sta di fatto che non esiste un contratto, pare che dopo anni e anni di promesse si riesca a mettere fine a questa giungla di contratti per i collaboratori parlamentari. Tra l'altro c'è anche un caso, l'Unità ne parla pagina 19, sul caso Verro che allarma il Quirinale, è la vicenda che riguarda Antonio Verro, che è membro del consiglio di amministrazione della RAI, ma da qualche tempo, da un paio di settimane, è entrato anche in Parlamento, è subentrato a un deputato che ha rinunciato per incompatibilità. Ebbene, Verro ha questa doppia posizione, incompatibile per legge, ma ha un tempo, credo un mese, per decidere. Nel frattempo partecipa ai consigli di amministrazione della RAI, però è anche, siede anche in Parlamento. L'abbiamo anche cercato, speriamo di riuscire a intervistarlo. Faccio un appello pubblico, se Antonio Verro vuole parlare con noi, riproveremo a cercarlo per spiegarci questo suo ruolo doppio e duplice di incompatibilità. Intanto sul Corriere della Sera, pagina 23, sempre dal mondo della casta, e c'è chi dice no preventivamente a questi tagli, è l'ex ministro del Partito Democratico Giovanna Melandri, 50 anni, si potrebbe, visto che in questi giorni è tornato molto sui titoli di giornali, dire la Melandri non ci sta. Vitalizi, tagli sbagliati, dice la Melandri. È dal 1994, racconta in questo colloquio con Monica Guerzoni, che siedo in Parlamento, non ho mai preso il doppio stipendio, non ho fatto come tanti miei colleghi il deputato e al tempo stesso l'avvocato, il notaio, il commercialista, lasciai a 35 anni un lavoro di economista in Montedison, ho deciso di servire il mio paese. Tutte queste premesse per dire i tagli che annunceranno tra oggi e domani Fini e Schifani a me non piacciono. Soprattutto il taglio sui vitalizi. Il vitalizio ha una sua logica. Così la Melandri, in futuro saprete cosa succede? Succede che potrà candidarsi solo chi ha un notabilato sociale alle spalle, oppure un altro mestiere che continuerà a esercitare durante il mandato di deputato o senatore. Insomma, ci sono deputati, ecco, così, che piangono un po' miseria, non si capisce bene, non si possa fare come negli Stati Uniti, dove se uno fa il deputato e per legge non può fare qualsiasi altro lavoro. Sul vitalizio dice la Melandri: la prenderò il vitalizio tra 10 anni, nel 2022, però giura di non essere una di coloro che ha fatto ricorso contro questa modifica al vitalizio, no? Che prima poteva essere erogato dai 50 anni, ora è stato spostato ai 60 anni. E sapete che ci sono una ventina di deputati che hanno fatto ricorso. Di questi uno era l'onorevole Rosso, è l'unico del cui nome siamo certi che abbiamo portato a questi microfoni la scorsa settimana, ma giovedì i nomi usciranno, perché giovedì il presidente dell'organismo che dovrà decidere su tutti questi ricorsi, l'onorevole Giuseppe Consolo, aprirà il cassetto e dirà i nomi degli onorevoli che hanno fatto ricorso contro questo avanzamento di 10 anni di età da 50 a 60 per ottenere il vitalizio. Ci sono nomi noti, giura il Corriere della Sera, onorevoli ancora in carica, ex deputati di un certo calibro, a Montecitorio molti sospettano che ci sia anche il suo nome, onorevole Melandri, ma lei dice no, io non ho fatto ricorso, anche perché una delibera formale ancora non c'è. Quando ci sarà, eventualmente potrei farlo, gli estremi ci sarebbero e non solo per i contributi già versati. Non mi piace l'idea del forcone contro i politici e la logica in cui stiamo entrando. Insomma, l'onorevole Melandri contesta questa logica del forcone contro i politici. Poi uno prende la Stampa, pagina 9, con un'intera pagina firma Carlo Bertini, e già dal titolo si mette di buon umore. Il Parlamento italiano è il più caro d'Europa. Attenzione però, la precisazione in tutto l'articolo di Carlo Bertini è questa: non pensiate che questa sia colpa del costo per italiano medio, per italiano pro capite, per i parlamentari. A pesare infatti è soprattutto la struttura, non gli onorevoli. Anzi, il costo degli onorevoli: a quanto costa ogni cittadino il Parlamento italiano? 27,15 euro. Cari italiani, tu Peter Bescapelli, i tuoi 27 euro e 15 centesimi all'anno pensi di darli per il Parlamento per una giusta causa? Sei contento? Sei soddisfatto di questo investimento da 27 euro e 15 che pesa su ogni italiano per mantenere il Parlamento? Ebbene, sappiate che il costo maggiore è quello del personale. È tutta un'inchiesta e un'analisi fatta da un organismo, una think tank, la Think Tank Vision, che ha messo in luce come soprattutto ogni cittadino italiano al Parlamento costa 3 volte più che in Francia, 27,15 euro, appunto 27 euro e 15 centesimi, in Francia 8,11 euro a testa. Costa 7 volte più che in Inghilterra, dove è 4,18 euro a cittadino britannico, 10 volte più che in Spagna. In Spagna danno solo 2,14 euro pro capite per il Parlamento. Noi siamo a 27,15 euro. Il costo del Parlamento è soprattutto per chi? Il personale. Ci sono stenografi o commessi che individualmente arrivano al massimo dell'anzianità a avere stipendi superiori ad alcune delle più alte cariche dello Stato. Accidenti, hanno fatto bingo. Stenografo alla Camera. Alla fine di carriera uno guadagna più delle alte cariche dello Stato. A fare il commesso, lo stenografo alla Camera. Ci fermiamo qualche minuto e poi ripartiamo con le altre notizie. Allora, le 7:33, come vi ho detto, tra un'ora esatta avremo il ministro della pubblica amministrazione Filippo Patroni Griffi per parlare del Consiglio dei Ministri di venerdì, nel quale c'è stato tutto il provvedimento sulle semplificazioni. Oggi trovate tutti i dettagli in maniera molto dettagliata sul Sole 24 Ore, diverse pagine. D'altronde, come si legge in prima pagina del Sole, in un intervento a 360 gradi, quello fatto dal governo venerdì scorso con l'obiettivo di semplificare la burocrazia, ci sono misure che riguardano direttamente la pubblica amministrazione, che poi si riflettono positivamente sulla collettività, interventi più tarati sulle esigenze dei cittadini e delle imprese, si parla soprattutto di più certificati sprint, le domande online per l'iscrizione all'università o ai concorsi pubblici, un nuovo sistema di autorizzazioni alla razionalizzazione dei controlli sulle aziende, la possibilità di avere anche questo, il pane fresco sulle nostre tavole, anche la domenica. Infatti cade il divieto dei panificatori di tenere chiuso la domenica, per l'appunto. Insomma, è un provvedimento appunto a 360 gradi. A pagina 2 e 3 tutti i principali le principali novità previste dal Consiglio dei Ministri, anche se devo dire oggi a pagina 11 del Corriere della Sera c'è una notizia che certamente inquieta un po' e viene lanciata anche in prima pagina del Corriere: quel 40% di famiglie italiane senza internet. E Massimo Sideri che ne scrive: la transizione verso il digitale in Italia è a buon punto. Pensate che la percentuale di servizi pubblici di base interamente disponibili online in Italia è il 100%. Siamo davanti alla Germania, che è al 90%, alla Francia, all'83%. Siamo ben oltre l'Unione Europea, una media dell'80,9%. Noi siamo al 100%. Questa è la percentuale di servizi online. E però, giustamente, il Corriere della Sera si chiede: e allora perché la percentuale di cittadini che negli ultimi tre mesi hanno inviato o ricevuto un documento della pubblica amministrazione è il 10,7%? Cosa c'è che non va? Beh, intanto un dato emblematico. In Italia 4 famiglie su 10, dunque il 40% delle famiglie, non hanno la possibilità ancora di collegarsi al web tramite una rete fissa. Ecco qui l'accesso impossibile a internet per 4 famiglie su 10, a pagina 11 del Corriere della Sera. Tutti i servizi pubblici sono online. E scrive tra l'altro il Corriere: dovendo riconoscere a Cesare quel che è di Cesare, questo aumento fino al 100% ha un nome, vale a dire Renato Brunetta, il ministro precedente alla pubblica amministrazione, che ha fatto un progetto di digitalizzazione della pubblica amministrazione che ha ottenuto risultati sulla carta ottimi. Sta di fatto che però 4 famiglie su 10 ancora non hanno l'accesso a internet e dunque la nostra rete non è completa. E dunque tutta la digitalizzazione rischia di frenare con questa metafora. È come se in Italia avessimo fatto tutti i caselli, ma manca l'autostrada per unire questi caselli. Tra l'altro, al ministro chiederemo anche di un altro dei temi su cui oggi il Sole 24 Ore con Rosalba Reggio si concentra. Pagina 6, vale a dire l'annoso problema dei pagamenti della pubblica amministrazione per le imprese che raggiungono tempi siderali, a volte anche 600 giorni, 2 anni se non di più. Allo studio, racconta il Sole 24 Ore oggi a pagina 6, per le imprese c'è un sistema per portare le amministrazioni a utilizzare le stesse modalità, dunque una procedura unica per i pagamenti della pubblica amministrazione, con diverse soluzioni allo studio che sono sul tavolo per il futuro. In ogni caso, tutti i dettagli li vedremo alle 8.30. Oggi l'attualità politica si concentra, per quel che riguarda i giornali, sul fatto che Monti va a Bruxelles a colazione con Merkel e Sarkozy per illustrare le riforme prese, per vedere a che punto è la modernizzazione dal punto di vista delle riforme dell'Italia. Ecco qui, non trovavo La Stampa, l'ho trovata perché La Stampa oggi regala la notizia forse più interessante a livello europeo, tanto che la mette in prima pagina il quotidiano di Mario Calabresi. Arriva il jolly europeo, 8 miliardi all'Italia. Di cosa si tratta? I dettagli sono raccontati da Marco Zatterin, pagina 2. Per la Commissione europea è il modello italiano, per l'Italia è il jolly europeo. Per tutti è il primo comma dell'articolo 8, insomma la strategia di riorientamento rapido dei fondi strutturali. Qualcosa di molto tecnico, comunque se approvata come tutto lascia intendere potrebbe mobilitare entro primavera 82 miliardi di euro per il lavoro e lo sviluppo a livello continentale. Di questi 7,9 miliardi andrebbero in Italia. Siamo d'accordo e siamo pronti, assicura una fonte governativa, i soldi per la compartecipazione ai progetti sono già in bilancio. Dunque questo sarebbe un tesoretto mica male. 8 miliardi di euro, 7,9 miliardi per la precisione, previsti per l'Italia, che potrebbero arrivare dall'Europa. Ma oggi ci sarà questo incontro. Andrà in Europa Mario Monti, forse illustrare anche le novità per quel che riguarda la riforma del mercato del lavoro. Su questo vi voglio segnalare due articoli, uno del Corriere della Sera e uno di Repubblica, che spiegano quelle che potrebbero essere le novità in arrivo su questo fronte. Per il Corriere, a pagina 9, Antonella Baccaro, occupazione e contratti, spuntano gli aiuti regionali. Mercoledì c'è l'incontro tra le parti sociali e è possibile che cosa? Per il Corriere della Sera, è possibile una sperimentazione territoriale a livello regionale della cosiddetta flex security alla danese. Vale a dire, si tratta della possibilità che alcune regioni si prestino a provare la nuova formula quasi danese, pagando ai lavoratori che perdono il lavoro i costi del ricollocamento e dei servizi di riqualificazione mirati. Certo, servirà che ci siano anche imprese disponibili a garantire durante la riqualificazione un trattamento complementare di disoccupazione. I dettagli sono ancora maggiori su Repubblica, pagina 2 e 3, con Roberto Mania. Il titolo fa capire quello che starebbe studiando il governo. Nuovi assunti senza articolo 18, ma in cambio addio al precariato. Questa è un po' la base della formula Ichino, cioè assumere tutti subito a tempo indeterminato, quelli che entrano nel mercato del lavoro ora, ma con la possibilità di licenziare. Dunque per loro non si applica l'articolo 18. Affronteremo tutti i problemi, ha detto il ministro Corrado Passera, e vi sorprenderemo. E con questa premessa inizia l'articolo di Roberto Mania. Ecco quale sarebbe la via d'uscita che sembra la più probabile. Intanto l'articolo 18, come è già stato detto, non sarà toccato per i lavoratori che oggi ne sono tutelati. Questa ormai sembra una certezza. Il tracciato però per il futuro sarebbe quello più o meno tratteggiato così. Per chi viene assunto con un contratto a tempo indeterminato provenendo dal bacino della precarietà, non sarebbe previsto il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa, cioè quanto stabilisce l'articolo 18. Bensì un risarcimento economico, che è esattamente ciò che suggeriva la BCE nella lettera di questo agosto. L'ammontare del risarcimento crescerebbe con l'anzianità del lavoro. Questo per quel che riguarda le proposte, ovviamente. Ma sul Corriere della Sera pare che su questa proposta del mercato del lavoro Monti, il premier Monti, abbia messo in campo un out-out. O c'è questa riforma oppure mi dimetto. O riforma o dimissioni, per dirla brutalmente. Questo è ciò che scrive Antonella Baccaro sul Corriere della Sera. A proposito di mercato del lavoro e delle imprese, oggi voglio anche segnalare tre cose veloci. La prima è lo stop al credito, che è l'incubo dell'Italia. Daniele Marini sulla Stampa racconta il dramma delle imprese di fronte al cosiddetto rischio di credit crunch, cioè quindi di riduzione del credito, dei flussi di credito da parte delle banche. A questo va aggiunto che anche sul Sole 24 Ore c'è un articolo di Guido Plutino. A pagina 19, ai negozi si fa sempre meno credito, un esercizio su tre nel mondo del commercio non ha ottenuto i finanziamenti richiesti. Insomma, diciamo che di fronte a questo allarme rispondono i banchieri oggi in maniera unita. Una lettera pubblicata a pagina 6 del Corriere della Sera, e le firme sono di Alessandro Azzi, presidente della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo, Carlo Fratta Pasini delle Banche Popolari, Giuseppe Mussari dell'Associazione dell'ABI, l'Associazione Bancaria, Antonio Patuelli delle Banche Acri e Camillo Venesio dell'Associazione Banche Private Italiane, firmano una lettera pubblicata. Il titolo è "Ecco cosa facciamo per non strozzare il credito". Rispondono a un articolo del vice direttore Dario Di Vico del Corriere della Sera per dire: nessun banchiere trama, pensa di cambiare mestiere, i nostri principali ricavi vengono dal margine di interesse, ovvero dalla differenza tra quanto paghiamo e a quanto prestiamo il denaro. A questo mestiere, come detto, non intendiamo rinunciare, perché in Italia la banca è un'impresa che, dopo aver raccolto il risparmio dai cittadini e sul mercato, finanzia altre imprese e famiglie. Insomma, rispondono così alle critiche che piovono da tutte le parti sulle banche a dire state mettendo in difficoltà le imprese. A proposito di difficoltà delle imprese, sempre per rimanere sul Corriere della Sera, oggi leggetevi la storia pubblicata a pagina 9 di Vittore Beretta, titolare del salumificio, presidente del gruppo alimentare di famiglia, che racconta: costruirei una fabbrica ma aspetto i permessi da 4 anni. La storia raccontata da Claudio Del Frate, a un certo punto il racconto riguarda uno stabilimento che vuole costruire Beretta a Rovagnate in provincia di Lecco. A un certo punto si sono messe di mezzo perfino le rane, pareva che la presenza di un nuovo stabilimento tra i colli della Brianza fosse incompatibile con la vita e l'habitat degli anfibi autoctoni. Mi hanno creato problemi anche per questo, ora pare superato, ma morale, dopo 4 anni non sono ancora riuscito a costruire, avere le autorizzazioni per costruire un nuovo complesso che avrebbe creato 300 posti di lavoro. A Nanchino, in Cina, le autorizzazioni mi arrivano in 20 giorni, le autorità della California in 2 mesi. Ora capisco il rispetto delle regole, nessuno pretende di fare concorrenza alla Cina anche sui 20 giorni, ma è possibile che in Italia, nella mia terra, passino 4 anni senza arrivare a una conclusione? E tra l'altro, dice, si è messa di mezzo la politica, ora tutto è rinviato fino alle prossime elezioni comunali di Rovagnate del giugno prossimo, tutto in stallo, i sindacati vogliono il nuovo stabilimento, porterebbe 300 posti nuovi di lavoro, il dato di fatto è che costruirei una fabbrica ma da 4 anni aspetto i permessi. Anche questa è Italia, il traffico. Allora, vi è piaciuto quello che i commercianti di Milano dicono? Per favore non chiamatelo blitz perché non siamo dei mafiosi. Ma insomma, quello che la Guardia di Finanza ha fatto a Milano, nella movida milanese, no? Sull'onda di Cortina, controlli a tappeto. Oggi i giornali sono pieni di articoli, il Corriere della Sera vi apre addirittura in prima pagina col titolo di apertura "Così i locali evadono il fisco". 1 su 3, il 30% di controlli hanno portato a delle irregolarità. Quasi tutti i commercianti milanesi pizzicati dalle fiamme gialle dagli 007 del fisco hanno falsificato gli studi di settore. A pagina 2, scontrini e merce truccata, Milano un terzo fuori regola. Ovviamente ci sono i commercianti che si difendono, alcuni dicono sono stati usati dei metodi militareschi eccessivi, va bene i controlli. C'è il commerciante intervistato da Repubblica, Gabriel Megnaghi, che è titolare di un negozio Furla in Corso Buenos Aires, che dice: viva i controlli, chi è in regola non ha nulla da temere, sono venuti anche da me in 20 minuti, sono stati gentili, io che non ho nulla da temere e che è tutto in regola, se ne sono andati, anzi il risultato è che sono scomparsi appena sono arrivati quelli della Guardia di Finanza, i commercianti abusivi che stazionano in Corso Buenos Aires. E quindi viva i controlli, insomma ci si divide, c'è chi è pro, c'è chi è contro, c'è chi dice ora mettete online coloro che non hanno che avete riscontrato non hanno pagato non emettono lo scontrino, hanno irregolarità fiscali, vogliamo i nomi su internet, cos'è, gogna o giustizia? Insomma, il tema è sempre questo dibattuto. Non è neanche escluso che domani ne parleremo, perché ormai è una lotta, no, senza quartiere per quel che riguarda il fisco. Ora l'Agenzia delle Entrate fa sapere e ora andremo anche al sud. Sul Sole 24 Ore, beh, una pagina interessante per riflettere, pagina 11, cresce al nord il rischio evasione, è una pagina a cura di Cristiano Dell'Oste, Giovanni Parente, che parte da una riflessione. Cominciamo con una domanda: come fa una famiglia a spendere regolarmente più di quanto guadagna, un mese dopo l'altro, un anno dopo l'altro? Forse si indebita, forse ha un patrimonio inesauribile a cui attingere, o forse incassa delle somme che non risultano dalla dichiarazione dei redditi. Verrebbe da dire quale delle tre voi vi giocate, no? In un'ipotetica scommessa. Se quella famiglia è l'Italia, la risposta tira in ballo inevitabilmente l'evasione fiscale. Il dato da cui partire è questo: nel 2009, ultimo anno per cui sono disponibili i dati, gli italiani hanno dichiarato al fisco redditi per 783,2 miliardi, ma hanno fatto acquisti per 918,6 miliardi. Di fatto ogni 100 euro registrati nel modello unico nel 730 ne sono stati spesi 117, con punte vicine a 140 in Calabria e in Sicilia. trovate tutta la mappa regione per regione dove questo squilibrio lievemente sospetto, lievemente per carità sospetto, si accentua o diminuisce, sta di fatto che gli italiani spendono più di quanto guadagnano. Boh, avremo sotto il materasso dei grandi capitali lasciati dalle nonne o dai nonni, ci indebiteremo perennemente ogni giorno sempre di più e ogni anno sempre di più, chi lo sa. Oggi trovate anche molto della figura di Oscar Luigi Scalfaro, ex presidente della Repubblica, di cui oggi ci sono i funerali in forma privata. Beh, certo, ci sono ovviamente tanti racconti della vita, la vita da magistrato giovane nell'Azione Cattolica, tutta la vita politica di Oscar Luigi Scalfaro, ma devo dire che la maggior parte dei commenti si concentrano sulla parte centrale, quella quando nel 94 ci fu il cosiddetto ribaltone, cadde Berlusconi, le accuse da parte del centrodestra di dire non ci furono nuove elezioni ma il governo tecnico, il governo Dini, l'accusa di essere un traditore da parte del centrodestra, l'accusa invece di avere difeso la Costituzione, la difesa della Costituzione invece dall'altra parte, e insomma oggi i giornali si dividono su questo, tanto per dire due titoli emblematici del Giornale e dell'Unità. Il Giornale in prima pagina: Scalfaro santo, noi non ci stiamo, con l'editoriale di Vittorio Feltri, mentre l'Unità proprio mette in prima pagina la morte di Oscar Luigi Scalfaro, l'uomo della Costituzione. Vi segnalo due interviste, le più critiche sono di Antonio Martino, allora ministro, che disse: mi addormentai ministro degli esteri nel 95, mi svegliai che non lo ero più e chiamai Berlusconi. Che hai fatto? Gli dissi. Tranquillo, mi rispose Berlusconi, il presidente ha studiato il calendario e mi ha assicurato che si voterà a giugno. Sì, certo, gli rispose io, e quel giorno i gatti abbaieranno. Ma Martino dice... ho capito che aveva tradito il mandato popolare. In ogni caso, sulla figura di Scalfaro ci sono tanti profili che oggi trovate sui vari giornali. Due notizie per concludere. La prima è una pagina di Repubblica, del Giornale, della Stampa. I pediatri sono molto allarmati. I pediatri sono in rivolta, secondo il Giornale, e anche per la Stampa, perché c'è un progetto da parte del governo di fare in modo che i bambini dopo i 6 anni, quindi dai 7 anni in su, siano affidati non più al pediatra, come la scelta oggi, si può far seguire un bambino fino a 14 anni al pediatra, ma debbano andare, secondo la riforma, dal medico di base, quello che cura gli adulti. I pediatri sono in rivolta, così secondo il Giornale. I bambini li curiamo noi, il governo dice il medico di famiglia già ai 6 anni, ma i pediatri sono contrari a questa riforma che forse in questa settimana verrà approvata o verrà studiata. E infine, quando il titolo e i colori rossoneri esondano dalla Gazzetta dello Sport, va citato Milanissimo firmato Ibra. Questo è il titolo di apertura della Gazzetta dello Sport per quel che riguarda il calcio, anche se una parentesi sul tennis, sull'immenso Djokovic che ha vinto gli Australian Open a Melbourne dopo una battaglia di 6 ore. Questo per gli appassionati di tennis. Ora ci fermiamo, c'è il Giornale Radio.